Paisa, è lunedì sera sulle frequenze di Controradio, sono le 21 passate da 3 minuti, anche per dirvi che è tutto live in diretta. Giusto per farvelo capire. Giusto per farvelo capire e darvi una testimonianza vera. Se vuoi ti posso dare un destro, poi metti la foto su Facebook. Fa vedere che c'ha l'occhio nero. Tu invece di farlo spiritoso ci dovresti raccontare poi per filo e per segno, seppur in sintesi estrema, quello che hai sentito e visto a Dissonanze lo scorso fine settimana. Dai, dopo vi farò una review. Ok, almeno le cose più importanti, diciamo le cose quelle che non ti sono garbate lasciale perdere, raccontaci solo quelle che ti sono piaciute. Ok. Invece poi vi faremo un piccolo elenco di alcune cose che secondo noi sono interessanti che accadranno nei prossimi giorni a Firenze e in Toscana. E per il resto basta, sentirete 4 DJ4 che mixeranno i loro dischini o i loro file 20 minuti a testa fino alle 22:30. Il loro file è brutto, eh? Oh, sono anche file in alcuni casi. Qua non ci sono mezze misure, o è analogico analogico tipo il set di Tommy adesso, quindi vinile puro, o è analogico digitale. Esatto. Potete chiamarci se vi va 055 73 999 33. Il primo lo abbiamo già detto, è Tommy. Buon ascolto. Mm-hmm. Time where she's gone. I wonder if she sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone, 'cause she's always gone too long. Anytime she goes away, wondering this time where she's gone. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away. In the east, my love for you, darling, will never cease. Eternal love, eternal love. As sure as the star shines in the sky, my love for you, darling, will never die. Eternal love, eternal love. You and I must be more realistic in whatever we do. When the bad times comes along, you must be there, and I'll be strong and sure as the sea. Bitch. mash it up, mash it up, mash it up. That's what the man say, say, say. Wish I could have mash it up, mash it up, mash, mash, mash, mash, mash, mash. And show the way, that's what the man say, say. Mash up, illiteracy, make me mash up. Poverty, come make me mash it up. Mash it up, mash it up, mash it up. Cause in this time everyone need to live good. In this time everyone need a good home. In this time everyone need a good house, yeah. How would I leave it up the rightful way? So I'll fight for a better thing. I think we leave it up, leave it up. Yeah, I think we leave it in a Babylon. Take it to Zion. Leave it in a Babylon. Take it in a Zion. Leave it in a Babylon. So we can know how to live that when we go to Zion. Won't be no problem, yeah. Cause we'll be dealing with progress going in Babylon. So when we go to Zion, we'll be dealing with righteousness, eh? Mash it up, mash it up, mash it up, yeah. And throw it away, yeah. Wish I could have mash it up, mash it up. And throw it away, that's what the man say. And make me mash up, literacy, make me mash up. Poverty, I make me mash it up. Sai che c'ho sempre un timore reverenziale ad andare con la voce vecchio, sopra quella degli speech dei grandi giamaicani. Doctor Alimentado non si arrabbierà, dai. Hai capito? Oh, vecchio, the best dressed chicken in town, eh? La copertina c'era lui vestito veramente in un modo. Aspetta, aiutami a ricordarmela. Sì, c'aveva un colletto improbabile. Ma più che il colletto improbabile, è tutto. Era il resto. È proprio Dead Brook, con tutti i vestiti rotti, le scarpe spaccate. Usava i gilettini in quel sì, tempo. Sì, giusto? Sì, sì. E andavano negli anni '80. Sì. Gran gileini. A parte Dottor Alimentado in chiusura, hai suonato altro? Ma guarda, mi ricordo giusto un Jawworks. Dei Gladiators. Dei Gladiators. Un classico. Poi che altro? Mamma mia, oh, che memoria, man. Ah, i Masgan degli Abyssinians. Okay. Ken Booth. Esatto. Il resto, la playlist, quella dettagliata, precisa, completa, con tutto, la trovate sul blog ragnarpaisa.blogspot.com a partire da domani pomeriggio, con naturalmente anche tutte le possibilità di scaricare i file della trasmissione, quindi il podcast vero e proprio. Allora, dico un paio di robe ora, vai. Poi dopo facciamo il resto. Okay. Allora, verso metà settimana, a parte la trasmissione domani online sul blog, mm-hmm, verso metà settimana tenete d'occhio il blog, perché buttiamo fuori il secondo volume di Beat a Confronto, okay, che sarà del buon Digi Galessio. Fantastico. E il mix di Knapp. Yes. Serata 40 Hz in quel di Roma, un suono abbastanza simile a quello che si proponeva noi dentro Off Beats, quindi un incrocio fra nuove sonorità, dubstep, beats vecchio roots, vecchio dub. Anche loro, come noi, proporranno una serata con Coolie G, che sarà ospite qui di Ragnan Paisa all'Anfiteatro delle Cascine il prossimo 2 di giugno, che è mercoledì, ma è festa nazionale, a ingresso gratuito. Mm-hmm. E loro insieme a Coolie G fanno anche Warrior Queen. Ah! Che ultimamente sta uscendo con un sacco di progetti, soprattutto sulla Hyperdub di Code 9. Nice. Adesso tocca a Duccio. C'è quel ragazzo con la maglietta di Gonja Sufi. Anche stampata male, peraltro, la maglietta. No. Ma lui l'ha presa perché è fan, e quindi è fan. Padre Sciompoli. Ti assomiglia un po', eh. We'll be right back.

Clarkson, tu siffles dans mes oreilles. Jusqu'à ce que je saigne. Clarkson, tu n'es plus même. C'est pour ça que je t'aime. Oh, Wonderful day, yeah, what a wonderful day, wonderful day. Yeah, what a wonderful day. Let's be spontaneous, let's get on the train or bus. Yeah, just the two of us, not laze away the day. The sun is shining, let's catch some rays. Or jump in the car, go as far as the petrol takes us. Yeah, just me and you, mono y mono. Leave the adult life till tomorrow, no convertible. So we hold our head out the window like we did when we was a kid. Just cruising for the fun of it, and we got no place to go. Just the lanes of the open road. Just me and you, perfect, nowhere that I'd rather be. What a wonderful day. Yeah, what a wonderful day, wonderful day. Yeah, what a wonderful day, wonderful day. Yeah, what a wonderful day, wonderful day. Yeah, what a wonderful day. We'll be right back. Music and Digital Art Festival, sesta edizione. Anfiteatro, Parco delle Cascine Firenze, ingresso gratuito. Dal 1 al 6 giugno Move Festival inaugura l'estate fiorentina con più di 50 progetti musicali tra DJ set, live set, performance e showcase. Riapre dopo 10 anni la leggendaria location dell'anfiteatro con una 6 giorni dedicata alla musica elettronica e alla sperimentazione digitale. Move Festival, 1 6 giugno Firenze, ingresso gratuito. Info www.firenzemove.com o 055 6530 215. Movimento Studentesco Sinistra Per presenta Pisa Folk Festival 2010, dedicato alla musica della tradizione popolare, spettacolo dei pupi siciliani, musica con zampogne e ciaramelle, ritmi della pizzica salentina con Alla Bua in concerto, Lione Junno in concerto con la Sotaranta Beat Live Tour e molto altro. Pisa Folk Festival 2010, dal 26 al 30 maggio alla Cittadella ed in piazza Gambacorti a Pisa. Inizio concerti ore 21, ingresso libero, programma completo su www.sinistraper.org. Controradio. Piace entrare alle 21.50 nel blu dipinto di blu di Pinch. Comunque dobbiamo far mettere nel preventivo dell'anno prossimo, nel bilancio preventivo, due monitor 2011. Sì, due monitor che si possano chiamare tali. Sì, beh, è impossibile mixare. Ho fatto degli scavalli di sicuro tremendi. Ti faccio trovare due monitor wireless che li puoi piazzare dove vuoi senza cavi, eh? No, cioè, ma du monitor, non monitor, dico monitor du casse. Che sono? Ah, ok. Ho detto due monitor wireless, ci sono anche quelli. Ah, sì. Quelli audio senza fili, così te li puoi spostare dove vuoi. Ora metto in movimento i sudamericani. Bravo. Per cercarli a prezzi buoni. Bravo. Diciamo, ecco. Basta farcino la fattura. La fattura contro il malocchio, quella sì, l'altra non lo so. Di volumi stasera, speriamo che almeno il podcast venga bene, perché se la qualità è questa, no, è perché capivo, uno che è a mixare, cioè, tende sempre a alzare il volume perché non si sente, non si niente sente. Allora dici qualcosa di Dissonanze 2010, visto che tu sei andato in perlustrazione. Posso dire le robe belle, cioè King Midas deve essere, mi hanno raccontato che è stato bello, però io sono arrivato e era già finito, perché suonava tipo alle 7. Sì. Cioè in pratica ero al bar davanti, ho sentito la voce di Gonja Sufi e ho fatto una corsa dentro. Hai lasciato la fila che stavi facendo per, esatto, bere. Che com'è andata? Ma cioè, senza vuoto, perché ha suonato tipo quattro pezzi, ha cantato quattro pezzi, tipo mezz'ora. Sulle basi gentilmente offerte da Gaslam. Da Gaslam Kill, sì. Due pazzi su un palco, però con zero risposta. Qualcuno li aveva incontrati in giro per Roma, parecchio in botta. Non ho tante difficoltà a crederlo, insomma. Poi invece Jill Scott Heron. È stato bellissimo live. Lui in formissima, grande band. Ok. Band però ridotta di numero, vero? Sì, sì, sì, sì. C'erano tipo quattro persone, mi pare. E lui al Rhodes, come l'abbiamo, esatto, visto esibirsi le ultime volte, esatto, su YouTube. Poi Jimmy Liddell, bravissimo. Super band anche, sì, lui. Sì, super band, è bravissimo. Poi ho sentito il live set di, mezzo live set di Stenchman. No, che dico, Stenchman, Shackleton, che suonava nella stessa sala con Martin. Sì. Anche No Such Thing e Darkstar, che però non ho visto. No, erano, perché il live audio video di No Such Thing mi sa che è una delle cose che proprio fervo di portare da queste parti quanto prima possibile. Ho visto dei preview di un paio di pezzi in cui lui controlla sia la parte audio che la parte video. Ma chi, scusa? No Such Thing. Praticamente ha una proiezione, sì, sì, sì, di vettoriali su sfondo nero controllati da lui, che lui si proietta addosso e in uno schermo dietro. Mi riprometto di vederlo live al Sonar a giugno, sì, tra sì, poco a Barcellona, dove suoneranno tutti loro. Vabbè, poi Martin e Martin set dritto? Sì, è partito disco, funk, poi è andato su acid house, UK funky, eccetera. Invece al sonar l'ultima volta, l'anno scorso, aveva suonato un po' più tecnoso, tra dubstep e techno. No, vabbè, lui comunque fa sempre quei DJ set un po' misti. Direi che si può lasciare a questo così, punto. Il DJ set misto anche del nostro buon Bubu, che inizia adesso e vi porta avanti fino ai prossimi 40 minuti. 25 magari, va? Yeah.

A chiusura questo Daniel Savio Flogstatential di un set davvero fantastico del nostro Bubu. Ho rimbalzato tutto il tempo, tutti e 25 minuti, hai notato? Io vecchio era a scrivere la tracklist. Io facevo coreografia nell'angolina. Nel mentre stiamo spruzzando per aria della roba chimica. Mamma ma va bene, mia, va bene. Io senti, non sento più niente in cuffia, ah, cioè ormai ti sto seguendo dal labiale. Qua non funziona più niente, c'ho la cuffia tutto fuori e non sento nulla. In compenso puoi sentire col naso, senti? Puoi sentire il funk, sì, vecchio. Ascolta. Se non capisci le parole. Prima di perderci in stupidaggini, yes. Fammi dire queste ultime due robe. Vai. Allora, volevo segnalarvi che è uscito il primo EP della crew di Overnights, i nostri amici. Vero. E lo trovate scaricabile su il loro Bandcamp, che è overnights.bandcamp.com. Overnights. Onzen.com. E dentro c'è beat, un po' di rap di tutta il gruppo loro. Quindi Mille Lemmy, lo Zac, Daretta, Johnny Boy. C'è un beat di Biga, Azzeni. Uno di Bubu, sì, Azzeni e il buon Digi. Yes. Digi. E poi su BlueNox.com invece è uscito l'EP di Mecna nuovo, che si chiama Le valigie per restare. A proposito, grande big up al buon Macro Marco, che giovedì scorso ci ha deliziato assieme al Biga. Yes. Con una selezione veramente fantastica alla stazione Leopolda per Fabbrica Europa. Invece devo entrare ricordandovi un po' di appuntamenti della settimana. I primi riguardano proprio Biga, che sentite già suonare in sottofondo e che va a chiusura di questa puntata. Sabato sera suona Alex Jaragua, che ora credo si chiami Beppa. Domenica invece sempre Biga lo trovate al Pop Caffè. Vecchio, ma Jaragua ora siamo a Beppa, ha fatto l'operazione. E con questa me ne vado, ragazzi. Ecco, giusto. Non sbattere la porta però, che si sente. Domenica sera invece io suono col buon Selfish, che mette i video al Brancaleone di Roma per l'LPM Festival. E visto che ci sono, vi ricordo anche l'appuntamento del 2 di giugno con Coolie G e Chrissy Chris, l'anfiteatro delle Cascine, Ragnan Paisa Crew, Numa Crew e un sacco di altra gente a gratis. Chiudiamo con Biga, buonanotte e buon ascolto, ci troviamo sul blog. Matador de cangaceiro. Piate, piate, piate. Pit, pit, pit. Matador de Eu me carrego moda de viola, não dá luz a sábado eu vou à festa, vou levar meu violão. Vou cantando uma canção que eu decorei. Sábado eu vou à festa numa nuvem de algodão. E entre estrelas vou abrir meu coração. E vou encher de vagalumes meu cabelo e respirar o ar do céu. Oh, eu quero céu e pouco guizos dos sapatos, minha roupa e farrapos coloridos. Vou rasgar e vou dançar entre os cristais azuis do tempo e esquecer a terra longe, longe, longe se perder. Sábado eu vou. Tão antigos, fatos tão passados. No meio das fotos vai roendo um rato. Corre um rato, pega, pelo amor de Deus. Ontem li num almanaque aventuras de pastores e cordeiros. Quando eu terminava, uma voz de rua disse coisas certas, pelo amor de Deus. We'll be right back. marina, marina, marina vou, marina, marina, marina vou, marina, marina, marina vou, marina, marina, marina vou, boate, cinema pro futebol, marina, eu sei agora, marina, marina, não me dá mal, marina, marina, marina vou. Marina, descubro o motivo da vida. Marina, pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa as vidraças insensíveis. shopping center building. Se você me perguntar o que é que eu acho, mesmo que eu acho, eu já digo que não acho. Das moças chiques, eu quero chuva pra estragar o piquenique. Eu não provei aquele tipo de xarope que está por cima nas pesquisas do Ibope. Eu estou remando rio acima por prazer. Foi por querer. Me passe o sal pra botar na sobremesa. O grande público cansou minha beleza.